Sì, qualche ora fa un gruppo di lampedusani hanno preso delle barche, alcuni dei barconi con cui sono arrivati i tunisini, e li hanno portati diciamo all'entrata del porto, perché c'è questa specie di gola, ci sono due punte che fanno un restringimento. E quindi la loro intenzione sarebbe bloccare ulteriori sbarchi. Vabbè, poi c'è un gruppo di lampedusani che bloccano pure la strada che porta al porto dalla parte da cui sbarcavano le barche prima. Niente, questa idea era stata messa, detta in piazza anche da Forza Nuova al comizio, era sabato, mi sa. E quindi è una situazione che un po' preoccupa, perché diciamo che l'esasperazione della gente a Lampedusa li può portare verso una direzione che diciamo è più di razzismo e non accoglienza, anche se in generale i lampedusani sono abbastanza accoglienti, hanno sopportato una situazione molto pesante per molti giorni. Al momento ci sono, diciamo, circa probabilmente 7.000 persone, 7.000 tunisini, poi i lampedusani sarebbero circa 5.000. Ovviamente non ci sono cifre chiare, perché quando i tunisini arrivano i primi giorni stanno accampati senza essere contati, probabilmente qua in questa zona vicino fra il porto e l'aeroporto, dove si sono fatti delle tende, dove ogni giorno aumentano queste tente, baracche dove loro si riparano, visto che non hanno coperte, non hanno altro modo per ripararsi. Quindi è una situazione che si fa sempre peggiore. Tra l'altro oggi è uscita nei giornali la notizia di una coppia di lampedusani che sono tornati a casa e c'erano dei tunisini che stavano rubando. Erano entrati in casa loro e sono stati picchiati, però noi abbiamo parlato con un nostro amico che si è informato con i carabinieri hanno detto che non c'è stata nessuna denuncia, quindi probabilmente questa è una voce messa in giro da qualcuno, probabilmente per ragioni ovvie. Ci siete? Sì, certo. Pronto? E quindi sì, diciamo che la situazione è sempre più critica. I tunisini qua praticamente i primi giorni sono diciamo così accampati, poi dopo qualche giorno un po' così alla rinfusa, secondo me anche un ordine preciso, ricevono dei numeretti che appunto gli danno diritto ad essere trasportati in Italia prima o poi. Non hanno mai un'idea chiara di quando saranno portati in Italia. Ovviamente non hanno nessuna idea di quello che gli spetta, gli succederà una volta che arrivano in Italia. Vabbè, noi cerchiamo di fare quello che possiamo. Adesso siamo qui in questa baraccopoli, stiamo parlando un po' con loro per capire cosa pensano pure del fatto che i lampedusani hanno chiuso il porto. Stranamente loro hanno detto che hanno pure ragione, perché effettivamente è una situazione invivibile pure per loro. Quindi capiscono Sì. pure i lampedusani. Benissimo, va bene. Per adesso noi ti ringraziamo, ci sentiamo magari più in là se ci saranno altre novità. Ok, Grazie ancora. grazie a voi, ciao.